Ieri sera era il 25 aprile. Ieri era il 25 aprile, venerdì prossimo, il 1 maggio. Dunque è l'occasione buona per rendere nota la lettera che ci ha inviato un ascoltatore gentile, Carmine Bruno, o Bruno Carmine, non saprei, di Castronno, in provincia di Varese. Costui, iscritto alla mitica FIOM, l'organizzazione dei metalmeccanici facenti capo alla CGIL, da alcuni anni riceve insieme alla tessera sindacale un'agendina omaggio. E da alcuni anni regolarmente si incazza perché dal calendario occluso a quell'agendina né il 25 aprile né il 1 maggio risultano indicare quello che lui ritiene dovrebbero indicare. Purgate da ogni accenno all'anniversario della liberazione e alla festa del lavoro, quelle due date figurano dedicate alla commemorazione rispettivamente di San Marco Evangelista e di San Giuseppe Artigiano. Insomma, nelle agendine del sindacato non esiste non che la festa della liberazione, neanche quella del lavoro. Escludendo l'ipotesi di una svista, perché quelle diciture, come il nostro ascoltatore largamente documenta, sono in opera da anni, e una svista che dura degli anni non è credibile, ed escludendo che la responsabilità vada fatta risalire alla ditta che produce le agende, perché i metalmeccanici nonostante tutto sono ancora 1.600.000, per il 45% aderiscono alla FIOM, il numero di agendine che le organizzazioni devono ordinare annualmente ai loro fornitori non deve essere quindi inferiore alle 720.000, e chi ordina 720.000 agendine può pretendere che in calendario siano inserite tutte le feste che vuole. Insomma, escluse tutte queste ipotesi, il compagno Carmine è costretto a pensare che l'omissione rappresenti una resa senza condizione alla controparte, almeno sul piano ideologico. Oggi come oggi, commenta, un'ipotesi del genere rischia di essere nella probabilità. Ma non è finita qui, eh? Recatosi a trovare un compagno funzionario dei metalmeccanici, il nostro ascoltatore ne ha ricevuto in omaggio un calendario della segreteria provinciale della FIOM, calendario che suppone stampato in numero molto ridotto di copie, perché i funzionari nella sua provincia sono meno di 20. Ebbene, in quel calendario la festa della liberazione c'è, e quella del lavoro anche. È una contraddizione inspiegabile che pone un preciso problema d'eguaglianza, perché ora festa del lavoro esiste anche nelle agendine degli operai o non deve esistere sui calendari dei sindacalisti. Il 1 maggio e il 25 aprile non possono essere un privilegio per pochi. E chissà, si chiede, se la stessa prassi è in vigore anche tra altre categorie di lavoratori o se è una chicca dei mitici metalmeccanici. Noi non siamo in grado di rispondere a questa domanda, purtroppo. Io personalmente ho fatto parte di un sindacato della CGIL per qualche anno, non ho mai ricevuto in omaggio né agendine né calendari, e in fondo non mi aspettavo di riceverne, nella presunzione in seguito rivelatasi, come dire, un po' presuntiva, che il sindacato fosse un'organizzazione di lotta e non un distributore di gadget. E tuttavia, se me ne avessero mandata una, vista la politica che quel mio sindacato perseguiva in tema di orario di lavoro, non mi sarei stupito se avesse indicato come lavorative tutte le domeniche e abolito il periodo delle ferie estive. Perché su una cosa sono totalmente d'accordo col nostro ascoltatore. Credere che da quell'agendina l'anniversario della liberazione e la festa del lavoro siano sparite per una semplice svista, per cause di forza maggiore, come l'incoercibile volontà di un tipografo devoto a oltranza a certi santi, mi sembra davvero difficile. Magari il funzionario responsabile non l'aveva fatto apposta, non avrà espressamente ordinato al tipografo di cassare quelle due ricorrenze, ma il fatto che a quelle due ricorrenze non abbia badato, che non si sia neanche d'accordo che non c'erano, non può che avere un significato ben preciso. Il 25 aprile lo abbiamo letto in questi giorni, è una festa controversa, ha una quantità di persone non va proprio giù, come dimostrano i continui tentativi di edulcorarla, di snaturarla, di relativizzarla, affiancando al ricordo della liberazione l'ossequio a coloro combattendo contro i quali la liberazione è stata perseguita. Era, finché non riusciranno ad abolirla, sarà una tipica ricorrenza di parte, che nonostante l'abbondanza di bandiere tricolori e di autorità dello Stato, ricorda come per instaurare in Italia quel poco di democrazia che si è riusciti a instaurare, è stato necessario prendere doverosamente a legnate un certo numero di italiani che a quel programma erano contrari e i cui fautori negli ultimi 53 anni non hanno mai smesso di auspicare una rivincita. E quanto al 1 maggio, anche se lo si definisce comunemente così, non è mai stata una festa, nel senso festoso del termine, è sempre stata una scadenza di lotta, è nata 109 anni fa per ricordare una strage e ci sono voluti decenni di scontri anche piuttosto feroci per imporla, e non dovunque ci si è riusciti come ricorrenza di tutta la società civile. Non è la festa del lavoro e basta, è la festa del lavoro organizzato in lotta contro i padroni per l'abolizione dello sfruttamento, che è un'altra cosa che un mucchio di gente, i padroni tanto per cominciare e poi tutti loro reciproca, non amano né ricordare né celebrare. E allora che volete che vi diciamo? I tempi sono cambiati, certe caratterizzazioni di parte non piacciono più, una sinistra moderna e persegue il bene generale del paese, non gli interessi particolari dei suoi rappresentati, che roba del tardo 800. Un sindacato moderno rappresenta l'intera struttura sociale, il lavoro nella sua totalità, nelle sue complesse e moderne articolazioni. San Giuseppe Artigiano non sarà forse una figura moderna, ma doveva essere uno che per lavorare lavorava, figuriamoci con quel figlio che si ritrovava e che in bottega non dava mai una mano, e non aveva, a quanto risulta, né controparte cui opporsi, né rivendicazioni per cui scioperare, e quindi rappresenta un po' il modello ideale di lavoratore quale lo auspicano le organizzazioni sindacali negli anni 90. Ah sì, ultima cosa, e perché quelle due feste sul calendario dei dirigenti ci sono? Beh, è ovvio, i dirigenti devono dirigere, per dirigere devono essere pronti a tutto, pronti anche a certe inconsulte nostalgie che possano serpeggiare nei loro organizzati. Suppongo che sulle loro agende quelle date siano segnate in caratteri di stampa con grossi punti esclamativi rossi come segni di pericolo: attenti ragazzi, arriva il 1° maggio, che San Giuseppe Artigiano ce la mandi buona.